gli anni passano, nei libri storie passano, le ore passano, il tempo è fermo lì, passano e passano, non ritornano più. Suonano le note, suonano, la musica sei tu. Cambiano le donne, cambiano, ma l'unica sei tu. Vertici di cose immobili che mi strappate fragili, vorresti averle qui, leggerle sarebbe inutile a riportarti qui, scrivere sarebbe facile, esiste. Cuore instabile, rimbalzano su e giù, fremiti di bimbi piccoli, le voci dentro me, chiamano e si rincorrono, il libro ora sei tu. Il libro della vita, il libro della vita, il libro della vita sei tu. Il libro della vita, il libro della vita, il libro della vita sei tu.